Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ma vogliamo parlare di quella che ormai io ho definito la maledizione del legamento crociato? Ma si rompono tutti il legamento crociato, atleti e non atleti? Beh, degli atleti abbiamo notizia, lo riportano i giornali, ma secondo i dati sono 150.000 ogni anno le persone che a cui parte, come diciamo noi, il legamento crociato. Ma allora che cosa succede? Si può fare prevenzione? E se il legamento crociato si rompe, che cosa faccio? Mi devo operare? Resisto? Cambia la mia vita? Devo rinunciare allo sport, al ballo, allo sci? Giro tutte queste domande al nostro esperto che è tornato a trovarci, il dottor Massimo Berruto, che è responsabile dell'unità operativa di chirurgia del ginocchio, per l'appunto, al Gaetano Pini di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei. Ma allora, questo legamento crociato è così delicato? È delicato, è bellissimo e quindi, come tutte le cose molto belle anatomicamente, è molto delicato. È delicato se non ci stiamo un po' attenti, nel senso che ovviamente dobbiamo distinguere quelle che sono le lesioni, come ha detto lei, del grande atleta. Queste sono cose che sono purtroppo, fanno parte del mestiere, perché certo, è così. Mentre per gli sportivi meno non professionisti o per chi fa dello sport ogni tanto, o allora anche la persona che è proprio uno sportivo, non è uno sportivo che fa ogni tanto la sciata, ogni tanto la partita di calcetto con i colleghi, ecco, allora lì ci possono essere delle precauzioni che possono un po' prevenire queste lesioni. Parliamo allora di queste precauzioni. Salva il legamento crociato, così. Save the ligament, esatto. Save the ligament. No, allora le precauzioni sono anzitutto prepararsi allo sport, perché è chiaro che se vado a giocare a calcetto in un terreno, su un brutto terreno, con delle scarpe diciamo non adeguate, non mi sono minimamente allenato, arrivo stanco dopo una giornata di lavoro, ecco, è evidente che cerchi. Molto me lo vado a cercare. Così come se vado a sciare una volta all'anno, e a quel punto lì è chiaro che tutte questi aspetti e questo tipo di abitudini, di cattive abitudini, espongono al rischio, tant'è vero che c'è un'ecatombe di sciatori e sciatrici della domenica. Sono tempi durissimi. Questa è la stagione del crociato, no? Come ci sono le varie stagioni, questa è la stagione del crociato legata agli sport di invernali, per cui la preparazione, la cura dell'attrezzatura, perché questo è molto importante, soprattutto per lo sci. Adesso usano questi sci corti. Esatto, sugli sci corti bisogna avere una capacità muscolare di controllo del movimento molto maggiore, perché lo sci corto fa leva, lo sci fa leva sul piede, si dice, gli americani chiamano questo tipo di lesione la lesione del phantom foot, cioè del piede fantasma, che vuol dire che lo sci allunga il piede praticamente e quindi agisce come leva sul ginocchio in senso rotatorio, per cui a quel punto lì rompe più facilmente il crociato. È chiaro che se si ha un miglior controllo dello sci, questi meccanismi si evitano, si riducono. Se si è invece un pochino meno preparati e meno allenati, allora certo, è chiaro che tutto diventa molto più semplice, il rompersi il crociato diventa molto più semplice. Anche lo scarpone, vero? Gli scarponi moderni, purtroppo, una volta all'epoca dei nostri nonni c'erano le scarponi bassi che rompevano le caviglie, oggi gli scarponi alti invece rompono i crociati, perché spingono, qualcosa lo rompono, esatto, perché spingono la tibia verso l'avanti, e spingendo la tibia verso l'avanti stressano il legamento crociato e si rompe. Parliamo di crociato anteriore, perché ricordiamoci che ne abbiamo sempre due di crociati, un posteriore e un anteriore. Ma il posteriore ci posteriore dà un po' meno problemi, molto poco problematico, sì, meno frequente, 10% di lesioni all'anno contro l'enormità di quello che ha detto lei sul crociato anteriore. Dottor Berruto, ci sono anche ginocchia che sono più a rischio di altre? Sì, ci sono ginocchia che anatomicamente sono più a rischio, cioè ci sono ginocchia che hanno, sono più lasse, quindi la struttura legamentosa del paziente è più morbida e quindi chiaramente meno resistente. Ci sono ginocchia conformate in modo tale da ghigliottinare il crociato, ci sono queste gole dei femori dove il crociato sta e queste sono molto, a volte possono essere più strette, cioè si nasce con delle cose più con queste gole più strette e quindi queste in certi movimenti diciamo rompono il crociato più facilmente. Quindi ci sono queste caratteristiche. Le donne sono naturalmente più a rischio, le donne sfavorite dalla conformazione del loro ginocchio e quindi sicuramente le donne ancor più degli uomini devono prepararsi all'attività sportiva perché sono molto più a rischio. Tra l'altro, a proposito di attività sportiva, lei mi raccontava che ci sono state delle ricerche proprio sul legamento crociato della UEFA che hanno in qualche modo rilevato dei dati molto interessanti. C'è il momento della partita più a rischio, la stagione più a rischio, interessante. Assolutamente sì. L'UEFA ha fatto uno studio meraviglioso su 15 anni di attività delle squadre professionistiche nell'UEFA Champions League, monitorando in modo meraviglioso tutti gli infortuni. Allora, gli infortuni più frequenti sono quelli muscolari nel calciatore professionista, poi vengono quelli del ginocchio, ovviamente il crociato anteriore. Allora, hanno visto che alla fine dei tempi, primo e secondo tempo, si rompe più facilmente che non durante la partita, all'inizio e durante la partita. Hanno visto che c'è una stagionalità, quindi da novembre a febbraio si rompono più facilmente i crociati che non negli altri periodi stagionali. Hanno dato tutta una serie di dati che sono assolutamente interessanti, che sono bellissimi da consultare. Dottor Berruto, mi rompo il legamento, come me ne accorgo? Ho male? Allora, gonfia il ginocchio? Mi rompo il legamento. La prima sensazione che ha il paziente è di qualcosa che è andato fuori posto, cioè il ginocchio è andato leggermente fuori posto, oppure ho sentito un clac, un pop, un crank all'interno del ginocchio che non ho ben capito. Un rumore sospetto, esatto. Dopodiché provo a rimettermi in piedi, il ginocchio un po' mi cede e dopodiché mi si gonfia, perché la sequenza è un pochino questa: nel giro di poche ore il ginocchio si gonfia, quindi chiaramente perché il crociato è vascolarizzato, quindi arrivano arterie per alimentare e mantenere in vitale questo legamento, e quindi nel momento in cui si rompe il legamento queste arterie si rompono e il ginocchio improvvisamente si gonfia, e si gonfia tanto, per cui questo è un segno molto, molto importante. Paradossalmente il crociato, quando ci si rompe il crociato anteriore, si ha un po' di male all'inizio ma poi il male scompare, per cui quasi il paziente tende a sottovalutare. Mi opero o non mi opero? E se mi opero, che cosa devo sapere? Allora, sicuramente se sono un giovane sportivo tendo ad operarmi, perché questo è evidente. Se ho delle esigenze, se voglio giocare, è chiaro che mi opero. Se sono un over 40, ragiono in rapporto alle mie esigenze. Quindi io ci penserò nel caso. È ancora lontano. Siamo molto attenti, sì, esatto. Valutiamo con molta calma. E chiaramente dipende dall'esigenza del paziente, quindi voglio fare sport, non ce la faccio a star fermo, eccetera, tenendo conto che senza crociato si può comunque nuotare, correre in linea, andare in bicicletta e sciare con un tutore. Quindi questi sono, diciamo, il range di attività che uno può fare. Quindi over 40 se ho delle esigenze sportive, oppure se nella vita quotidiana questo ginocchio mi cede, perché il sintomo da crociato non è il dolore ma è l'instabilità, cioè sentire un ginocchio che sui movimenti di rotazione torsionali, sui cambi di direzione non è tanto sicuro. Allora questo è importante, perché vado a ballare nelle balere e vado a fare un po' di tango, piuttosto che a quel punto lì, se il ginocchio un po' mi cede, quella è la mia vita. Me lo faccio operare, chiaramente. Se invece non lo faccio operare, e poi torniamo sull'operazione perché so che poi è un'operazione che richiede anche dei tempi di recupero, se non mi faccio operare devo però imparare a usare bene le ginocchia, quindi in fondo devo reimparare a muoverlo correttamente. Assolutamente, devo acquisire dei nuovi schemi motori, cioè devo capire che quando esco dalla macchina, ad esempio. Esatto, devo capire che su quel ginocchio non posso fare grosse rotazioni usandolo come perno, perché il ginocchio tende ad uscire, tende ad andare fuori posto. Quindi esco dalla macchina, ruoto tutto il mio peso del corpo su quel ginocchio, rischio di errore. Quindi quel ginocchio è un ginocchio assolutamente normale, uguale all'altro, finché vado dritto, faccio dei movimenti diciamo molto controllati. Nel momento in cui cui ruoto, cado da un salto, faccio dei movimenti così, devo stare attento a usare l'altro come perno, come ginocchio, che è portante. Interventi in artroscopia, quella che noi chiamiamo la chirurgia dei tre buchini, però attenzione perché poi inizia il lavoro. La strada è lunga, esatto. Allora, artroscopia sicuramente, usando dei tendini propri del proprio ginocchio, quindi intervento poco invasivo, anche abbastanza poco doloroso in anestesia periferica, quindi è un intervento affrontabile. Quello che bisogna capire è che il vero lavoro inizia dopo l'intervento, quindi se sono un manager che vuole, che ha un appuntamento a New York dopo domani, non posso andarci. Ecco. Liberate l'agenda. Quindi per un primo mese sono abbastanza limitato e poi devo dedicarmi a quel ginocchio per i sei mesi successivi per riportarlo in condizioni tali da poter fare attività sportiva. Ecco, io questo, quindi messaggio alle amiche che mi stanno ascoltando. Il vostro compagno, il vostro marito, ecco, vuole farsi operare di legamento crociato, sapete che cosa vi aspetta. Esatto. È un po' di parte, ma ci sta. È giusto. Dottor Berruto, grazie per essere stato con noi. Ricordo, responsabile dell'unità di chirurgia del ginocchio il Gaetano Pini di Milano, mentre noi ci sentiamo a mezzogiorno e poi ci vediamo in diretta Facebook. Grazie a Filippo Aureggi, regia la parte tecnica, e a Laura Vanossi in redazione. Buona giornata da Nicoletta.